Capitolo 21. La polemica circa la proposta del signor Collins era ormai giunta quasi al termine, ed Elisabetta ebbe soltanto a soffrire per le sensazioni spiacevoli che necessariamente gliene derivarono e talvolta per qualche accenno bisbetico da parte della madre. Quanto a quel signore, i suoi sentimenti trovarono essenzialmente espressione non nell'imbarazzo, nella disperazione o nel tentativo di evitare la cugina, ma in un contegno rigido e in un silenzio pieno di rancore. Le rivolse a stento la parola e le premurose attenzioni, di cui egli per il primo era stato così consapevole, furono dedicate per il resto della giornata alla signorina Lucas, la cui cortesia nel dargli retta fu di comprensibile sollievo per tutti e per l'amica in modo speciale. L'indomani non portò alcun miglioramento nell'umore e nella salute della signora Bennet. Anche il signor Collins si mostrò nel medesimo stato d'animo di orgoglio irritato. Elisabetta aveva sperato che il suo risentimento potesse fargli abbreviare la visita, ma il suo programma non apparve menomamente sconvolto dall'accaduto. Aveva sempre detto che sarebbe partito il sabato e fino al sabato aveva tuttora intenzione di rimanere. Dopo colazione, le ragazze fecero una passeggiata a Meryton per informarsi se fosse tornato il signor Wickham e per lamentare la sua assenza dal ballo di Netherfield. Proprio mentre raggiungevano la città, egli si fece il loro incontro e le accompagnò fino a casa della zia, dove ebbero agio di parlare del rimpianto e dell'irritazione di lui, nonché del generale rammarico. Con Elizabeth, tuttavia, egli ammise che la necessità della sua assenza se l'era imposta da sé. Con l'avvicinarsi del giorno fissato, egli spiegò: «Ho capito che avrei fatto meglio a non incontrarmi col signor Darcy, che trovarmi con lui nella stessa sala, alla stessa festa, per molte ore di seguito, sarebbe stato più di quanto avrei potuto sopportare e che avrebbero potuto nascere delle scene sgradevoli per altri, oltre che per me». Ella approvò pienamente la sua generosità ed ebbero modo di discuterne a fondo e di farsi reciprocamente segno una quantità di cortesie, poiché Wickham e un altro ufficiale le riaccompagnarono a Longbourn e durante la passeggiata gli si dedicò a lei in modo particolare. Il fatto che le avesse accompagnate presentava un duplice vantaggio. Ella seppe apprezzare l'omaggio che in tal modo le veniva reso e fu un'occasione quanto mai opportuna per presentarlo ai genitori. Poco dopo il loro ritorno venne consegnata una lettera per la signorina Bennet. Veniva da Netherfield e fu aperta senza indugio. La busta conteneva un foglietto di elegante carta fustellata, coperto di una bella, fluente calligrafia femminile. Ed Elisabeth osservò che il viso della sorella cambiava colore nel leggerlo e la vide soffermarsi con attenzione su alcuni passi in particolare. Jane si ricompose tosto e, riposta la lettera, cercò di unirsi con la sua abituale gaiezza alla conversazione generale, ma Elisabeth era così angustiata che distolse l'attenzione persino da Wickham. E non appena questa e il suo compagno si furono accomiatati, un'occhiata di Jane la invitò a seguirla di sopra. Quando ebbero raggiunto la loro stanza, Jane, tirata fuori la lettera, disse: «È di Carolina Bingley. Ciò che contiene mi ha veramente sorpreso. A quest'ora se ne sono andati tutti via da Netherfield e stanno per raggiungere Londra, e senza la minima intenzione di ritornare. Sta a sentire che cosa dice». Lesse quindi ad alta voce la prima frase che conteneva la notizia della loro recente decisione di seguire subito il fratello in città e della loro intenzione di pranzare quel giorno in Grosvenor Street, dove il signor Hurst aveva una casa. La frase successiva era così stilata: «Confesso di non rimpiangere nulla di ciò che lascio nello Hertfordshire, salvo la tua compagnia, mia carissima amica, ma dobbiamo sperare di godere ancora molte volte in avvenire di quella deliziosa intimità che abbiamo conosciuto, e nel frattempo cerchiamo di diminuire la pena della separazione con un'assidua, sincerissima corrispondenza. Per questo confido in te». Elisabeth ascoltò tutte quelle alate espressioni con l'insensibilità dettata dalla sfiducia, e benché fosse sorpresa della subitaneità del loro trasferimento, non ci vide nulla di cui veramente dolersi. Non c'era da supporre che l'assenza delle sorelle da Netherfield impedisse a signor Bingley di trovarcisi, e quanto alla perdita della loro compagnia, Elisabeth era persuasa che Jane avrebbe smesso di soffrire quando avesse potuto godere di quella di lui. «Peccato», ella disse dopo un breve silenzio, «che tu non possa vedere le tue amiche prima della loro partenza dalla campagna. Ma non possiamo sperare che l'epoca di felicità a venire prevista dalla signorina Bingley arrivi prima che lei se ne renda conto e che la deliziosa intimità che avete conosciuto come amiche non si rinnovi con soddisfazione ancora maggiore come cognate. Non saranno loro a trattenere il signor Bingley in città. Caroline dice chiaramente che nessuno di loro tornerà nello Herefordshire quest'inverno. Ora ti leggo. Quando mio fratello ieri ci lasciò, credeva che gli affari che lo avevano chiamato a Londra potessero concludersi entro 3 o 4 giorni, ma siccome siamo sicuri che ciò non può verificarsi, nello stesso tempo convinte che una volta in città Charles non avrà la minima fretta di lasciarla di nuovo, abbiamo deciso di seguirlo colà, perché egli non sia costretto a trascorrere le sue ore libere in uno scomodo albergo. Molte delle mie conoscenze vi si trovano già per l'inverno. Mi auguro, mia carissima amica, che tu mi faccia presto conoscere la tua intenzione di aggiungerti alla nostra brigata, ma non oso sperarlo. Auguro sinceramente che nello Herefordshire il vostro Natale rechi abbondantemente con sé tutti gli svaghi caratteristici della stagione e che i tuoi ammiratori siano così numerosi da non farti sentire la mancanza dei tre dei quali ti priviamo. Con ciò è evidente, soggiunse Jane, che per quest'inverno egli non farà più ritorno. È evidente soltanto che la signora Bingley non ritiene che egli debba tornare. Perché insisti in codesto pensiero? Deve essere invece tutta una sua manovra. È ben padrone delle sue azioni. Ma tu non sai tutto. Voglio leggerti il brano che mi ha particolarmente offesa. Non voglio nasconderti nulla. Il signor Darcy è ansioso di rivedere sua sorella e, per vero dire, noi non siamo meno impazienti di ritrovarci con lei. Credo davvero che Georgiana Darcy non abbia uguali per bellezza, eleganza ed educazione, e l'affetto che ella ispira a Luisa e a me è accresciuto da qualche cosa di ancora più essenziale, dalla speranza cioè che osiamo accarezzare di vederla diventare presto nostra cognata. Non so se ti ho mai parlato dei miei sentimenti a questo riguardo, ma non voglio lasciare la campagna senza averteli confidati e spero che tu non vorrai giudicarli irragionevoli. Mio fratello già l'ammira molto. Avrà ora frequenti occasioni di vederla in un rapporto di familiarità assoluta. I parenti di lei si augurano questa unione non meno di quelli di lui. E non credo di essere fuorviato dalla mia parzialità di sorella quando dico che Charles è ben capace di conquistare il cuore di qualsiasi donna. Con tutte queste circostanze a favorire un'affezione e niente a frapporvi ostacoli, mi sbaglio, mia carissima Jane, a indulgere nella speranza di un avvenimento che garantirà della felicità di molti? Che ne pensi di questa frase, cara Lizzy? Domandò Jane quando ne ebbe terminata la lettura. Non ti par chiara abbastanza? Non dimostra forse che è perfettamente convinta dell'indifferenza del fratello e che, sospettando la natura dei miei sentimenti nei confronti di lui, intende, molto gentilmente del resto, mettermi in guardia? O si può interpretare la cosa in diverso modo? Sì, altro che, io la interpreto in tutt'altra maniera. Vuoi starmi a sentire? Molto volentieri. Eccoti la mia opinione in poche parole. La signorina Bingley si è accorta che tuo fratello è innamorato di te e vuole invece che sposi la signorina Darcy. Lo segue in città nella speranza di trattenervi anche lui e tenta di persuaderti che gli sei indifferente. Jane scosse il capo. Su, via, Jane, dovresti credermi. Nessuno che vi abbia mai veduto insieme può mettere in dubbio il suo attaccamento, nemmeno la signorina Bingley, stanne certa. Non è tanto sciocca. Se avesse soltanto potuto scorgere nel signor Darcy la metà di tanto amore, si sarebbe già ordinata il vestito da sposa. Ma questo è il fatto. Noi non siamo abbastanza ricchi o abbastanza altolocati per loro, e lei sta tanto più a cuore di riuscire a pescare la signorina Darcy per suo fratello, in quanto capisce che combinato un matrimonio in famiglia avrà da durar meno fatica a combinarne un secondo. La qualcosa non manca di genialità e si potrebbe anche prevederne il successo se non ci fosse di mezzo la signorina De Bourgh. Ma insomma, Jane, mia carissima, non puoi pensare sul serio che per il fatto che la signorina Bingley ti dice che suo fratello ha una grande ammirazione per la signorina Darcy, egli sia in alcun modo meno sensibile ai tuoi meriti di quanto non fosse martedì nell'accomiatarsi da te, o che a lei riuscirà di convincerlo che in un luogo di essere innamorato di te, è invece innamoratissimo della sua amica. Se la pensassimo allo stesso modo sul conto della signorina Bingley, rispose Jane, la tua interpretazione di tutto questo potrebbe rendermi completamente tranquilla. Ma io so che tu parli da un presupposto sbagliato. Caroline è incapace di ingannare premeditatamente chi che sia. E tutto ciò che posso sperare è che in questo caso si sia ingannata lei stessa. Così va bene. Non avresti potuto avere una trovata migliore dal momento che non sei disposta a consolarti con la mia dimostrazione. Credi pure che sia ingannata, credilo con tutte le tue forze, così non le fai torto, non ti angusti più. Ma sorella cara, come posso essere felice, anche nella migliore ipotesi, accettando un uomo che sorelle e amici tutti desiderano che faccia un altro matrimonio? Sei tu che devi decidere, disse Elizabeth. E se dopo matura riflessione ti sembra che il dispiacere di far cosa sgradita alle sue due sorelle conti più della gioia di essere sua moglie? Io ti consiglio nel modo più assoluto di rifiutarlo. Come puoi parlare così? Domandò Jane con un debole sorriso. Dovresti pur sapere che, sebbene estremamente addolorata all'idea di incontrare la loro disapprovazione, non potrei esitare. Non ne dubitavo. Stando così le cose, non riesco a considerare la tua situazione tanto disperata. Ma se lui non torna più quest'inverno, nessuno richiederà mai una decisione da parte mia. Migliaia di cose possono accadere nel corso di 6 mesi. L'idea che egli non tornasse mai più non fu tenuta da Elizabeth in alcun conto. Ella ci vedeva solo il consiglio del desiderio interessato di Carolina e non supponeva nemmeno per un istante che quel desiderio apertamente o velatamente espresso potesse influire su un giovane così pienamente libero delle proprie azioni. Cercò di rappresentare con la maggior vivezza possibile alla sorella le sue impressioni in proposito ed ebbe tosto il piacere di constatarne il benefico effetto. Jane non era portata per temperamento alla disperazione e fu a poco a poco indotta a sperare, sebbene la sfiducia fosse talvolta più forte della speranza, che Bingley sarebbe tornato a Netherfield ad appagare ogni desiderio del suo cuore. Si erano messe d'accordo di comunicare alla signora Bennet soltanto la notizia della partenza della famiglia, senza allarmarla circa il comportamento del giovanotto. Ma questa notizia parziale le procurò ugualmente un mucchio di preoccupazioni ed ella lamentò come una gran disgrazia il fatto che le signore dovessero andar via proprio quando stavano diventando amiche così intime. Tuttavia, dopo essersene rammaricata per un bel pezzo, si consolò pensando che il signor Bingley sarebbe presto tornato e avrebbe pranzato a Longbourn. E la conclusione di tutto fu la confortante dichiarazione che, sebbene l'avesse invitato soltanto a un pranzo di famiglia, avrebbe avuto cura di fargli trovare un pranzo in piena regola. Capitolo 22. I Bennet furono invitati a pranzo dai Lucas e di nuovo, per la maggior parte della giornata, la signorina Lucas si prestò gentilmente ad ascoltare il signor Collins. Elizabeth trovò un momento per ringraziarla. Lo mantieni di buon umore, le disse, ed io ti sono più grata di quanto non ti sappia esprimere. Charlotte assicurò alla sua amica della propria soddisfazione nel rendersi utile, che la compensava ampiamente del piccolo sacrificio di tempo. Ciò era molto cortese, ma l'amabilità di Charlotte andava più in là di quanto Elizabeth potesse mai immaginare. Il suo scopo era né più né meno quello di mettere al sicuro l'amica da qualunque ritorno di fiamma del signor Collins, facendo convergere su di lei tutte le attenzioni di lui. Tale era il progetto della signorina Lucas e le apparenze erano così favorevoli che quella sera, quando si separarono, ella si sarebbe sentita quasi sicura del successo se egli non avesse dovuto così presto lasciare lo Hertfordshire. Ma qui faceva torto alla focosità e alla risolutezza del temperamento di lui, che lo indussero invece a sgattaiolar fuori dalla casa di Longbourn l'indomani mattina con mirabile astuzia, per correre a gettarsi ai piedi di Charlotte a Villa Lucas. Gli premeva di sfuggire all'attenzione delle cugine, persuaso com'era che se lo avessero visto allontanarsi, non avrebbero potuto a meno di indovinare il suo proposito, ed egli non desiderava che il suo tentativo venisse scoperto fin tanto che non se ne potesse conoscere la riuscita, giacché, sebbene si sentisse, e con ragione, dato che Charlotte era stata notevolmente incoraggiante, quasi sicuro di sé, gli era rimasta una certa qual diffidenza dopo l'avventura del mercoledì. Fu accolto tuttavia nel modo più lusinghiero. La signorina Lucas lo vide venire verso la villa da una finestra dei piani superiori e si avviò immediatamente per incontrarlo per caso sul viale. Ma non aveva neppure osato sperare che tanto amore e tanta eloquenza ve l'attendessero. In breve, per quanto lo consentirono gli sproloqui del signor Collins, fu tutto combinato fra loro con reciproca soddisfazione. All'attimo di varcare la soglia di casa, egli la supplicò ardentemente di fissare il giorno che avrebbe dovuto far di lui il più felice degli uomini. E benché tale richiesta dovesse per il momento venir differita, la signorina non si mostrò appunto disposta a trastullarsi con la felicità del suo pretendente. L'insulsaggine di cui madre natura l'aveva favorito era tale da preservare il suo corteggiamento da ogni attrattiva che potesse indurre una donna a vederlo continuare, e la signorina Lucas, che l'aveva accettato solamente per puro e disinteressato desiderio di sistemazione, non badava se questa sistemazione potesse essere raggiunta più o meno presto. Fu subito richiesto il consenso di Sir William e di Lady Lucas, che venne dato con la più lieta sollecitudine. Le circostanze nelle quali il signor Collins si trovava in quel momento lo rendevano un ottimo partito per la loro figliola, alla quale essi potevano lasciare un modesto patrimonio. Le prospettive di futura agiatezza erano poi estremamente allettanti. Lady Lucas cominciò subito a calcolare, con maggiore interesse di quanto fosse mai accaduto prima, quanti anni ancora avrebbero potuto vivere il signor Bennet, e Sir William si dichiarò nettamente dell'opinione che allorquando il signor Collins fosse entrato in possesso della tenuta di Longbourn, sarebbe stato molto opportuno che tanto lui quanto la moglie si facessero vedere a corte. Insomma, tutta la famiglia si mostrò debitamente entusiasta per l'avvenimento. Le figlie minori formularono la speranza di fare il loro ingresso in società un anno o 2 anni prima di quello che avrebbe fatto altrimenti, e i ragazzi furono sollevati dall'apprensione che Charlotte dovesse morire zitella. Quanto a Charlotte, si mantenne passabilmente dignitosa, aveva raggiunto il suo scopo ed ora aveva tempo per fare riflessioni in merito, riflessioni del resto, in linea generale, soddisfacenti. Il signor Collins, non c'era dubbio, non era né intelligente né simpatico. La sua compagnia era tediosa e il suo sentimento per lei doveva essere frutto di fantasia. Tuttavia, egli doveva diventare suo marito. Senza aver pensieri elevati, né sugli uomini né sul matrimonio, ella si era sempre prefissa lo scopo di maritarsi. Essendo questa l'unica sistemazione onorevole per signorine di buona famiglia, ma scarse di mezzi, e per quanto fosse incerta la felicità che poteva derivarne, era comunque la più comoda garanzia contro la povertà. Ormai tale garanzia ella l'aveva ottenuta e a 27 anni compiuti, senza essere mai stata bella, ne sapeva apprezzare tutta la fortuna. L'aspetto meno gaio della faccenda era la sorpresa che avrebbe suscitato in Elizabeth Bennet, la cui amicizia era valutata al di sopra di ogni altra. Elizabeth si sarebbe stupita e forse l'avrebbe biasimata, e sebbene nulla sarebbe valso a far vacillare la sua decisione, una tal disapprovazione avrebbe certamente ferito i suoi sentimenti. Risolvette di darle la notizia di persona e si raccomandò quindi al signor Collins di non far cenno dell'accaduto con nessuno della famiglia quando fosse tornato a Longbourn per il desinare. Naturalmente la promessa di segretezza fu data come si doveva, ma non poté essere mantenuta senza difficoltà, poiché la curiosità destata dalla sua lunga assenza si manifestò al suo ritorno con domande così dirette che ci vuole dell'ingegno per essere evasivo. Al tempo stesso, tutta la sua abnegazione veniva messa alla prova, desideroso com'era di rendere pubblico il suo fortunato amore. Poiché l'indomani mattina doveva mettersi in viaggio troppo di buon'ora per salutare i suoi anfitrioni, il cerimoniale degli addii si svolse quando le signore furono sul punto di ritirarsi per la notte, e la signora Bennet, molto compita e cordiale, gli disse quanto sarebbe stata felice di rivederlo a Longbourn ogni volta che gli altri suoi impegni gli avessero consentito di far loro visita. «Gentile signora», egli rispose, «codesto invito mi è particolarmente grato, perché è appunto quello che speravo di ricevere, e può star certa che me ne varrò non appena possibile». Rimasero tutti attoniti, e il signor Bennet, che non si augurava di certo un così sollecito ritorno, fu pronto a ribattere. «Ma non c'è pericolo, mio buon amico, che Lady Catherine in tal caso la disapprovi. Sarebbe meglio per lei trascurare i suoi parenti piuttosto che correre il rischio di recar fesa alla sua benefattrice. Caro signore, rispose il signor Collins, le sono particolarmente grato di questo amichevole consiglio. Può star tranquillo che non mi arrischierò mai a un tal passo senza l'approvazione di sua signoria. Non starà mai abbastanza in guardia? Arrischi qualunque cosa piuttosto che fare cosa sgradita? E se pensa che questo possa essere il caso, venendoci di nuovo a trovare, il che riterrei del tutto probabile, se ne rimanga tranquillo a casa sua e si metta pure il cuore in pace, che noi non ce ne riterremo offesi. Caro Creda, caro signore, che la mia gratitudine è caldamente ravvivata da così affettuose premure e stia certo che riceverà presto da me una lettera di ringraziamento per questa, come per ogni altra prova delle sue attenzioni durante il mio soggiorno nello Herefordshire. Quanto alle mie graziose cugine, benché la mia assenza non si prolungherà forse abbastanza da renderlo necessario, mi prendo ora la libertà di augurar loro salute e felicità, non eccettuata mia cugina Elizabeth. Le signore si ritirarono allora con i complimenti del caso, tutte ugualmente sorprese di constatare che egli meditava un prossimo ritorno. La signora Bennet volle vederci l'intenzione di rivolgere le sue premure a una delle sue figliole minori, e forse si poteva indurre Mary ad accettarlo. Ella aveva del cugino una stima molto più elevata che non chiunque altro della famiglia, aveva riscontrato in lui una solidità di pensiero che l'aveva sovente colpita, e sebbene egli non avesse certo il suo ingegno, la signora Bennet riteneva che se incoraggiato a leggere e a perfezionarsi da un esempio come quello della figlia, avrebbe potuto diventare un ottimo compagno. Ma la mattina dopo ogni speranza del genere svanì. La signorina Lucas venne poco dopo la colazione in un colloquio a quattro occhi con Elizabeth e riferì gli avvenimenti del giorno dinanzi. L'idea che il signor Collins si potesse immaginare innamorato della sua amica s'era affacciato una volta alla mente di Elizabeth durante gli ultimi 2 o 3 giorni. Ma che Charlotte potesse incoraggiarlo sembrava cosa tanto lontana dal verosimile quanto l'idea di incoraggiarlo ella stessa, e il suo stupore fu di conseguenza così grande da superare sulle prime i limiti della decenza. Fidanzata col signor Collins? Charlotte mia, è impossibile! Il dignitoso contegno che la signorina Lucas aveva mantenuto nel raccontare la storia cedette allora un attimo di confusione nel ricevere un rimprovero così diretto. Tuttavia, poiché non era niente più di quanto si aspettava, fu pronta a ricomporsi per rispondere tranquillamente. E perché te ne meravigli, cara Lizzy? Ti pare incredibile che il signor Collins sia capace di assicurarsi la stima di ogni altra dama soltanto perché non ha avuto la fortuna di riuscire con te? Ma anche Elizabeth si era intanto ricomposta e con uno sforzo notevole, seppe rassicurare l'amica con sufficiente fermezza che si rallegrava parecchio alla prospettiva della loro prossima parentela e che le augurava tutta la felicità del mondo. Capisco quello che provi, le rispose Charlotte. Per forza sei sorpresa. Tanto più sorpresa in quanto è passato così poco tempo da quando il signor Collins ha espresso il desiderio di sposare te. Ma quando avrai avuto tempo di pensarci sopra, spero che sarai contenta di ciò che ho fatto. Io non sono romantica, lo sai bene, non lo sono mai stata. Non chiedo altro che una casa comoda. E tenuto conto del carattere, delle relazioni, della posizione sociale del signor Collins, sono persuasa che le probabilità di essere felice con lui sono pari a quelle su cui molte ragazze possono contare sposandosi. Senza dubbio, rispose pacatamente Elizabeth, e dopo un silenzio imbarazzante tornarono col resto della famiglia. Charlotte non si trattenne a lungo ed Elizabeth fu quindi lasciata a riflettere su quanto aveva udito. Ce ne volle di tempo prima che potesse anche lontanamente riconciliarsi con l'idea di un'unione così scombinata. Il fatto che il signor Collins avesse potuto rivolgere 2 domande di matrimonio nello spazio di 3 giorni non aveva nulla di strano in confronto a quello che la seconda volta fosse stato accolto. Aveva sempre avuto l'impressione che le idee di Charlotte riguardo al matrimonio non fossero esattamente uguali alle sue, ma non avrebbe mai creduto possibile che nell'atto pratico ella avrebbe sacrificato ogni altro più nobile sentimento all'utile borghese. Charlotte, moglie del signor Collins. Che quadro sconfortante, in sommo grado. E all'amarezza di un'amica che si copriva di ridicolo e decadeva nella sua stima, si aggiungeva la disperante persuasione che quell'amica non avrebbe trovato neppure una mediocre felicità nel destino che si era scelta.